Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A voi tutti ascoltatori, buona Pasqua con tutto il cuore da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci Antonio, siamo arrivati anche al giorno di Pasqua sì. E stasera avremo un ospite virtuale, però veramente un ospite, beh, da leccarci i baffi. Allora Antonio, vuoi far dire tu qualcosa? Certo, allora noi diamo naturalmente un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Con un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Bene, allora... Per prima cosa, cosa facciamo? No, è meglio che prima facciamo ascoltare una canzone come inizio, così una canzone. D'accordo. Che sì. La canzone è L'uomo delle stelle di Ron. Ecco, ce l'ascoltiamo insieme e poi avremo al telefono Suor Michela. E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ruberò anche all'eternità. Che bella sei, così precisa dentro ai sogni miei. Che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Quest'uomo che vive per te, si resterò vita per sempre con te. Tenderò tutte le stelle, ci riuscirò, perché sono l'uomo delle stelle. E bella sei, unica luce dentro agli occhi miei, mi guarderai. Come non mi hai guardato mai, il tempo ci sfiorerà e saremo per sempre io e te. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite virtuale, la nostra ospite virtuale che è Suor Michela. Buonasera Suor Michela. Buonasera. Buonasera Suor Michela. Buonasera. Buonasera. Ma chi è Suor Michela? Chi è Suor Michela? Ecco, questa è la domanda che lasciamo rispondere naturalmente alla nostra cortese ospite. Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e soprattutto buona Pasqua. Grazie, ecco, grazie. Reciprocamente. Sono una suora e delle Serve di Maria Riparatrici. Sono nata a Villa Dose, provincia di Rovigo, ma ho vissuto fuori dal Veneto per circa 20 anni. Ho vissuto in varie regioni d'Italia, nord, centro, sud, e da alcuni anni sono ritornata nella mia terra d'origine. Abito a Costa di Rovigo, vicino alla città di Rovigo. Insegno religione cattolica in un liceo a Badia Polesine. Ho una grande passione ecumenica, nel senso che da diversi anni così la vita mi ha messo nelle condizioni di dialogare con persone di varie culture, sia all'interno della mia congregazione che fuori, e anche di religioni, confessioni diverse. Da un po' di anni ho anche fatto uno studio accademico a Venezia, conseguendo la licenza in teologia ecumenica all'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Ecco questo. Bene. Allora, ci può raccontare qualcosa della sua congregazione? Dove è nata? Quali sono gli elementi, gli aspetti? Sì, la nostra congregazione di Serve di Maria Riparatrici è nata in provincia di Treviso, vicino a Valdobbiadene, a Vidore. Siamo nate nel 1900, in questo piccolo paese della Marca trevigiana. La nostra fondatrice si chiamava Madre Elisa Andreoli, e Vicentina di Agugliaro, che ha fondato la congregazione con sua madre. È una cosa un po' insolita. Certo. Sua madre si chiamava Margherita Ferraretto. E assieme a loro due ci sono state altre due giovani ragazze che si chiamavano Carmela Regonesi e Agnese Vimercati. Frequentavano Monteberico ed erano terziarie dei Servi di Maria. Loro avevano sempre nutrito da piccole il desiderio di diventare Serve di Maria, appunto perché frequentavano una comunità dei Servi come appunto Monteberico. E dopo una lunga e faticosa ricerca approdano a Vidore a fine dell'Ottocento. E lì, appunto, nel 1900 danno inizio a questa piccola comunità. Nel 1902 Madre Elisa riceve un'eredità da una signora di Adria, provincia di Rovigo, ed è così che inizia la seconda fase della nostra piccola congregazione, che sarà riconosciuta nella diocesi di Adria Rovigo dall'allora Monsignor Vescovo Paulin, appunto dal Vescovo del tempo. E nel 1911 allora noi ci chiamavamo Serve di Maria di Adria. Nel 1911 attraverso il Vescovo Boggiani, il successivo Vescovo, che consigliò ad una signorina che si chiamava Maria Inglese, poi entrata nella congregazione con il nome di Madre Dolores Inglese, questa signorina ad un certo punto entrò nella nostra congregazione, e siamo negli anni 1911. E nel 1913 questo connubio spirituale diventerà così importante da modificare il nome da Serve di Maria di Adria a Serve di Maria Riparatrici. Sì, insomma, ha cambiato l'ultima parola. Sì, perché la fondatrice ha accolto attraverso questa persona una nuova espressione della spiritualità mariana già presente nella congregazione, che era appunto la riparazione mariana. Allora la riparazione mariana si caratterizzava soprattutto come un insieme di pratiche, di preghiere fatte a Maria per riparare i danni che venivano operati al suo cuore, le offese che venivano fatte a lei. Dopo il Concilio Vaticano II questa spiritualità è stata riletta, ricentrata in chiave teologica, e soprattutto esistenziale, per cui riparare oggi per noi non vuol dire soltanto fare delle preghiere a Maria, ma significa soprattutto imitarla nella vita, nella sequela del figlio, essere con lei e come lei accanto alle infinite croci degli uomini di oggi. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire, insomma. Sì. Certo. E quali iniziative avete vissuto, avete preparato in questo periodo lì a Rovigo? Sì, un'iniziativa che vorrei segnalare, ci sembra abbastanza importante, è l'ora della madre, che noi abbiamo celebrato il 19 di aprile, il Sabato Santo. L'ora della madre è una preghiera mariana per il Sabato Santo. Nel grande silenzio del Sabato Santo, dove tutto tace, e nella Chiesa Latina infatti non c'è liturgia se non è quella del silenzio, e da alcuni decenni comunque la famiglia dei servi a cui appartengo, i servi di Maria, a prima mi ero dimenticata di dire che le nostre radici comunque sono mendicanti, perché ricordavo prima che Madre Elisa e le altre sorelle frequentavano Monteberico, e Monteberico è una comunità di servi di Maria, nati, i servi di Maria sono nati a Firenze nel 1233 da 7 mercanti fiorentini, e avevano queste tre caratteristiche: un forte amore a Santa Maria, alla Vergine, e la fraternità. Infatti sono stati canonizzati nel 1888 come sette santi fondatori, non c'era un fondatore ma era una comunità alle origini, e il servizio a Dio e all'uomo, quindi una forte dimensione contemplativa e di diaconia e di attenzione ai fratelli e alle sorelle. E questa allora, i servi di Maria da alcuni decenni hanno così diffuso una preghiera che ha radici orientali, bizantine, e dicevo l'ora della madre, una preghiera appunto diffusa in continuità di ispirazione con la tradizione latina sicuramente, ma attingendo anche alla liturgia bizantina, che nel Sabato Santo canta i lamenti funebri della Vergine Madre. Ho capito. E delle pie donne dei discepoli al sepolcro di Cristo in attesa della sua risurrezione. Quindi è un'ora dove accanto a Maria tutta la Chiesa si raccoglie nel suo cuore ed è invitata a credere e a sperare oltre il dubbio e l'oscurità. E si è tenuta quindi nella mattinata del 19 di aprile questa celebrazione presso il Centro Mariano delle Serve di Maria Riparatrice, un centro di spiritualità mariana che noi abbiamo a Rovigo. A Rovigo, sì. Invece vorrei segnalare un'altra iniziativa che vivremo a breve, il 29 aprile. Accoglieremo anche qui a Rovigo la croce di Lampedusa. Sì, che sta girando adesso, sì, lo so. Sì, non so se conosce questa iniziativa. Sì, la conosco. Sì, il 9 aprile scorso, prima di Pasqua, la croce è stata benedetta da Papa Francesco durante un'udienza generale del mercoledì, e ha lo scopo di far incontrare parrocchie, diocesi, comunità cristiane, anche fedi diverse, che si possono appunto ritrovare attorno a questa croce fatta da un artigiano di Lampedusa con i barconi della cosiddetta morte, sì. I barconi dei naufraghi. Sì, sì. E, ecco, quindi abbiamo aderito anche noi come diocesi a questa iniziativa, e il 29 vivremo alcuni momenti significativi, soprattutto nel pomeriggio, uno presso questo centro mariano della nostra congregazione, un momento di preghiera, e alla sera in una fabbrica del territorio di Rovigo, della periferia di Rovigo, ci sarà una veglia per i lavoratori con il nostro vescovo, Monsignor Soravito. Dovrebbe arrivare poi anche a San Pietro di Feletto? Sì, si dovrebbe arrivare anche a San Pietro di Feletto. Adesso credo dopo... Sì, dopo di voi sicuro. Sì, perché poi dopo di noi dovrebbe probabilmente arrivare sicuramente a Novara e poi a Milano. Poi la Croce continuerà il suo pellegrinaggio attraverso l'Italia e non solo, oltre l'Italia in Europa. Sor Michela, ci fermiamo un momentino per un altro brano. Antonio? Allora, il prossimo brano si chiama The Prayer, la preghiera, ed è un successo internazionale cantato da Céline Dion e Andrea Bocelli. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Suor Michela. E volevo chiedere, Suor Michela, oggi è il giorno di Pasqua, naturalmente. Certo. E che significa la parola Pasqua e che differenza c'è tra la Pasqua nostra e la Pasqua ebraica? Sì, e il termine Pasqua, pesa in ebraico, vorrebbe dire molto probabilmente passaggio. Anche se gli studiosi non hanno ancora raggiunto un accordo sul significato etimologico di questo termine, altri indicano questo termine, lo spiegano con la parola saltellare oppure agnello sacrificato. Ecco, sicuramente possiamo cogliere tre passaggi fondamentali dell'evento pasquale, della Pasqua. Il primo è che la Pasqua era la festa dei pastori nomadi dell'antica Palestina, quindi era una festa di primavera, possiamo dire, nella quale si era soliti invocare la fecondità del terreno e la pioggia attraverso opportuni sacrifici animali propiziatori. E in un secondo momento, come sappiamo tutti, ha assunto un significato più profondo legato alla storia del popolo ebraico e soprattutto al momento in cui il popolo è uscito dalla terra d'Egitto e verso il deserto per arrivare alla terra di Canaan, alla terra promessa, e quindi è diventata il simbolo della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, la libertà della terra promessa. Con il cristianesimo, con Gesù, questo significato storico salvifico diventa ancora più profondo e più spirituale con il sacrificio, l'unico sacrificio di Cristo che viene perpetuato nel tempo, nelle nostre liturgie, ancora oggi nel tempo, ed indica proprio il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. E quindi è il passaggio che Gesù ha compiuto egli stesso e che noi siamo in lui, siamo chiamati a vivere, per passare da vecchie creature a nuove creature. Benissimo. Allora, accanto a Gesù abbiamo incontrato diversi personaggi, alcuni a lui favorevoli, altri che lo hanno osteggiato e condannato a morte. Chi sono quelli che lo hanno seguito fino a Gerusalemme e gli sono stati accanto? Ci può dire qualcosa di tali personaggi? Sì, all'inizio della Settimana Santa abbiamo visto la domenica cosiddetta delle Palme che Gesù è entrato in Gerusalemme trionfante a cavallo di un'asina. È stato un re mansueto e mite, non un condottiero forte e potente. La folla lo ha acclamato festante. Quella stessa folla qualche giorno dopo chiederà al governatore Pilato di crocifiggerlo al posto di Barabba, e che Pilato comunque voleva liberare Gesù, ma in realtà poi si è lasciato vincere dal tumulto della folla. E ecco, quindi nella passione di Gesù noi cogliamo tanti personaggi. Sicuramente notiamo due cortei, un corteo, come dicevo, trionfale, dove la gente acclama Gesù che entra in Gerusalemme. Quella stessa gente durante la Via Crucis che porterà Gesù al Calvario e quindi alla morte sul monte Golgota cambierà posizione. E sarà proprio questa gente a volere la sua morte. Ecco, io adesso vorrei farvi una proposta. Certo. Ho pensato di soffermarmi con voi su alcuni personaggi, dando loro la parola. Benissimo. Attraverso dei testi che ho rielaborato, ma devo dire che ho preso soprattutto da un signore che si chiama Virgilio Rossi, e questo lo faremo dopo aver letto alcuni brevi versetti della scrittura che presentano questi personaggi. Ho scelto la passione secondo il Vangelo di Marco, da cui hanno attinto anche gli altri sinottici, cioè gli evangelisti Matteo e Luca. Bene. Vorrei che queste letture fossero vissute con questi atteggiamenti di silenzio, di contemplazione, di stupore, soprattutto per il grande amore che Dio ha avuto per noi e continua ad avere. Va bene. Allora adesso mi faccio aiutare da due mie consorelle nella lettura dei brani biblici. Bene. Volevo solo segnalare che iniziamo con una donna, la donna del profumo di Betania, e finiremo con le donne al sepolcro. D'accordo. Ascoltiamo quindi alcuni testi del Vangelo di Marco, un testo del libro del profeta Isaia e poi del Vangelo di Giovanni. Dal Vangelo di Marco. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Cosa ho fatto di speciale? Si è fatto subito un gran parlare di me. Certo, mi era costato una cifra quel profumo, ma quel Nazareno era una persona speciale. Intuivo che non era come noi. Era qualcuno che meritava una particolare attenzione. Ungergli il capo con il nardo per me è stato come riconoscere in lui una specie di regalità. Vi giuro però che non avrei mai immaginato, come lui disse, che la sua morte fosse così vicina. Non capivo, come del resto non capivano gli altri. I presenti non avevano occhi che per questo mio gesto, per loro era un gran spreco. Per me fu un bel sacrificio usare quel nardo per il suo corpo, anziché per il mio. Lui apprezzò il gesto, ma non per vanità, non perché ci tenesse a far capire che era una persona importante. Egli lo accolse per quello che significava per me e per se stesso. Lui vedeva sempre oltre e ha avuto la delicatezza di non accennare alla mia professione. Ma si sa, c'è sempre chi critica, chi sussurra, chi ti mormora alle spalle, chi vuole vedere un secondo fine in tutto ciò che fai. Io non l'ho fatto per averne un ritorno, no, davvero, neanche per ottenere il perdono per la mia vita disordinata. Forse in quel momento mi sentivo di rappresentare tutte quelle donne che lui ha incontrato nella sua strada, l'adultera, la samaritana, la Maddalena, donne che il mondo aveva già giudicato e per le quali lui invece ha avuto solo parole d'amore e di perdono. Ascoltiamo ora il testo di Marco legato alla figura di Giuda il traditore. Sì. Dal Vangelo di Marco. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Venuta la sera, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Il mio nome è diventato sinonimo di traditore. Oddio, cosa ho fatto? Potrò mai perdonarmi? La gente mi offende e mi sputerebbe in faccia se mi incontrasse, e hanno ragione. Io, l'amico di Gesù, colui di cui lui si fidava tanto da darmi la cassa del gruppo, io l'ho fatto ammazzare. Alcune persone non capiscono come sia stato possibile. Andate a raccontare loro cosa sia l'amicizia in realtà. Non parlo di quell'idea bellina che tutti quanti abbiamo in testa da bimbetti, parlo dell'amicizia che concretamente esprimono circa 6 e forse più miliardi di persone nel mondo. È un morire a se stessi a favore dell'amico. E lo sapete quanti sono coloro che ci riescono? All'inizio quasi tutti, ma poi quando devi convincerti che le tue idee sono sbagliate, l'amico ha ragione, ti trovi a decidere, io o lui. Dovevo lasciare fare Gesù, che ci stava chiedendo di perdonare i nemici anche quando hanno torto? No. Ho provato tante volte a convincerlo, a smascherare gli ipocriti e i prepotenti che decidono per gli altri, ma lui voleva salvarli anche a costo di morire per loro. Allora non ho potuto fare altrimenti, o tradirlo o seguirlo sulla croce. Non ho creduto che la croce servisse a qualcosa. Secondo voi, a cosa serve un Dio morto? Se non è capace di vincere la morte, non è un Dio, vero? E così l'ho fatta ammazzare. Ma mi ha fregato, lui, la morte, l'ha vinta davvero, e sono stato io a sbagliarmi. Tutto l'odio, le ingiustizie e il male del mondo se li è tirati addosso e li ha portati nella tomba inchiodati al suo corpo. Ma non sono mai entrati nel suo cuore. E così quando il suo cuore è tornato a battere, lui è risorto. Il male è rimasto laggiù. Mamma mia, che capolavoro. E io? Io invece il male l'ho ospitato nel cuore. Anzi, l'ho anche un po' coltivato e così mi ha trascinato nella tomba con violenza. Ma ora che sono qui, sarebbe sufficiente che accettassi di essere da lui perdonato. Basterebbe che dicessi: Gesù, salvami, ce la farò. Bello. Ascoltiamo ora un passo legato all'apostolo Pietro che ha rinnegato Gesù. Dal Vangelo di Marco. Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli rispose: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma Pietro disse di nuovo: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Ero solo un pescatore. Lui ha cambiato la mia vita, ma quella notte sono crollate tutte le false certezze che mi ero costruito in quei tre anni condivisi con lui. Hai poco da dire, signore e signore. Vederlo catturare come un delinquente qualsiasi, senza opporre resistenza. Altre volte avevano tentato di catturarlo, ma lui era passato tra la folla come se fosse invisibile. Nessuno era riuscito a prenderlo. Quando ho visto i soldati, gli uomini con armi e bastoni, mi sono detto: anche stavolta non succederà, non cadrà nelle loro mani. Non possono avere il coraggio di andare contro la folla. La gente lo ama. Come no? Lo amava forse, come l'ho amato io, che sono fuggito. Non capivo niente. Non ho mai capito niente di lui. Sì, ogni tanto qualche intuizione. Credevo in quel che dicevo, anche se non capivo. Tant'è che poi, uscito con le mie solite sparate, e lui mi rimproverava, e io ci rimanevo male, ma lui era il mio maestro. Pensavo che avrei avuto tempo per capire, ma quella notte no, non potevo capire. E la paura fu il sentimento più forte che provai. Non mi vergogno a dirlo. Nonostante tutte le mie buone intenzioni, non riuscii a condividere con lui lo strazio di quel tormento che gli rodeva l'animo al Getsemani, quando si avvicinava l'ora della passione. Dormii invece di pregare con lui, e dopo fui sopraffatto dalla piega che avevano preso le cose. Ne ero assolutamente impreparato e pensai solo a salvare la pelle. Io gli ho detto che ero pronto a seguirlo anche nella morte, ma per paura di fare la stessa fine non ebbi neanche il coraggio di ammettere che lo conoscevo. Ma io sono solo un uomo. Più tardi capii. Dalla sua morte ho imparato tante cose, e tante più quando ritornò fra di noi e ci promise di restare accanto a noi col suo spirito. Non avevamo più bisogno della sua presenza fisica rassicurante, del suo parlare pacato ma deciso, che metteva in crisi farisei, dottori della legge, scribi. Capimmo che lui avrebbe continuato a predicare attraverso noi, non per merito nostro, neanche perché l'avessimo deciso noi. Ogni iniziativa fu sua. Allora sì, che fui pronto ad accettare anche il martirio e la morte. Bene, bel pezzo. Ci fermiamo un momentino, Sor Michela, per un brano. Sì. Che poi proseguiamo con

i capi del popolo ebraico magari lo avrebbero fatto uccidere da un sicario, e comunque nella Pasqua di quell'anno, con tutta quella gente agitata e fanatica, sarebbero scappati chissà quanti morti. E allora ho usato quella saggezza disonesta che noi governanti abbiamo chiamato ragion di Stato, perché il bene dello Stato a volte si può fare anche, perché per il bene dello Stato a volte si può fare anche il male. Lo sai però cosa mi ha veramente colpito? Che io ho sacrificato Gesù facendo un'ingiustizia, mentre lui si è personalmente sacrificato facendo un gesto di amore. E così ho capito il vero significato della parola sacrificio, che non significa soffrire per qualcuno o per un ideale, ma rendere sacro, cioè sacrum facere, ciò che sto facendo. Lui ha reso sacra anche la morte, perfino la morte ingiusta. Saltiamo. Sì. Allora, io le volevo chiedere, allora oggi, Antonio, cosa volevi chiedere tu? Sì, oggi è il giorno di risurrezione per i cristiani, cosa significa questa parola? Sì, allora, è sempre, è una parola latina, la parola risurrezione, che possiamo suddividere in tre parti, c'è il suffisso ri, di nuovo, sub, che significa da sotto, da dentro, reggere, che vuol dire dirigersi, condurre, guidare, governare, controllare. Quindi che cos'è la risurrezione? È un cambiamento di senso, di direzione, dalla morte alla vita, e questo avviene però sub, cioè dentro. Fuori le cose possono rimanere uguali, ma dentro cambiano, tutto è diverso, da morto a vivo. La domanda che ci si può porre allora è: come porci davanti a questo evento che non si può dimostrare razionalmente, ma qui o si accoglie nella fede o non si accoglie? Quindi è qui, insomma, che avviene poi lo spartiacque, no? Tra chi crede e chi non crede. E in altre parole potremmo dire che la risurrezione, qui prendo a spunto Hermes Ronchi, un nostro confratello servo di Maria, e Gesù è il risorto, il vivente, è un morto che è tornato a vivere. E allora potremmo dire che potremmo evidenziare tre cose: e che Gesù è il risorto, è l'attore di un evento che si è consumato una volta per tutte nel giardino fuori Gerusalemme, in quell'alba del primo giorno dopo il sabato. Però non è un evento concluso, è un evento che continua nel tempo, quindi Cristo è il risorgente, colui che continua a risorgere. E come continua a risorgere? Sorge tutte le volte che dal fondo del mio essere uomo, donna, dal fondo della storia, noi continuiamo a risorgere, a immettere energie nuove, positive, germi di speranza, di fiducia, di coraggio, di libertà. Ecco, qui, ecco. E poi Gesù è, l'ha detto egli stesso, è la via, la verità e la vita, ed è appunto la risurrezione e la vita. Ecco, questo un po'. E la Pasqua cosa può dire a noi uomini e donne del terzo millennio? Ancora attuale? Sicuramente, sicuramente la Pasqua è ancora attuale. E è una bomba atomica di energia positiva. E la Pasqua è un'esperienza che anche noi possiamo fare oggi, se ci apriamo all'amore di Dio, alla sua grazia, alla sua novità. E vorrei così dirlo a mo' di conclusione attraverso queste parole, ed è con questo che voglio anche salutare i radioascoltatori. Che in qualsiasi situazione in cui ci possiamo trovare, davvero ci sia sempre per ciascuno un'altra opportunità, una possibilità di rinascita, una novità che ridona vita, una luce che si riaccende, un'aurora che sorge dopo una notte di tempesta. Allora, coraggio a te che non ce la fai più e vorresti mollare, perché la vita, lo sappiamo, è diventata ormai troppo dura, crudele, ingiusta, complicata. A te, giovane, che hai perso la speranza e ti vedi rubare il futuro. A te, uomo, a te, donna, che hai smesso di credere che è possibile dialogare, collaborare insieme per rendere migliore questo mondo. Coraggio a te, famiglia fragile e spesso disorientata, non ti arrendere. A te, anziano, solo, ammalato, indifeso, che ti senti ai margini di un sistema che ci sta soffocando l'anima, il cuore, la creatività, la voglia di sperare e di credere in un futuro migliore. A te, che mi stai ascoltando, auguri e buona Pasqua. Sor Michela, facciamo in tempo a leggere quella bella poesia di Enrico Maria Turoldo. Sì, sicuramente. Turoldo, il nostro caro fratello, ecco, ne ha scritte tante di poesie. Vorrei leggere questa sulla Pasqua. E così vorrei salutare i radio ascoltatori. Lo voglio fare anche a nome delle mie due sorelle. Grazie. Sor Pierina e sor Irenea, che vi salutano. Grazie. E noi li cambiamo. Che hanno letto la parola di Dio precedentemente. Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. Andrò in giro per le strade, zufolando così, fino a che gli altri dicono, è pazzo. E mi fermerò, soprattutto coi bambini, a giocare in periferia, e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri, e saluterò chiunque incontrerò sulla via inchinandomi fino a terra. E poi suonerò con le mie mani le campane sulla torre a più riprese, finché non sarò esausto. E a chiunque venga, anche al ricco, dirò, siediti pure alla mia mensa, anche il ricco è un povero uomo. E dirò a tutti, avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e con un sorriso. Mamma mia, mi commuovono sempre le poesie, queste poesie, ma sono bellissime, proprio straordinarie proprio. Allora a noi non resta che ringraziarla infinitamente. Io ringrazio voi per questa opportunità, è stato un piacere. Beh, per noi è stato veramente, vero Antonio? Sì, un piacere grande, naturalmente. È stato veramente meraviglioso, è stata una trasmissione che passerà la storia, dai. Non esagerate. No, ma insomma, effettivamente. Papa Francesco dice che dobbiamo trovare nuovi modi per annunciare il Vangelo. Ecco, questo è uno sicuramente efficace. Ecco, quindi ho solo prestato la mia povera voce e anche le mie consorelle con me, perché sono consapevole di essere solo un piccolo canale. È stata bellissima. È solo lui che fa. Certo. Comunque è stato bellissimo. E noi la ringraziamo con tutto il cuore. Vi ringrazio altrettanto e saluto ancora tutti gli ascoltatori. E veramente, buonanotte. E buona Pasqua. Grazie, sor Michela. Di nuovo, buona Pasqua anche a lei. Ecco, allora noi ci ascoltiamo una canzone che è di Giosi Cento, Gloria è risorto. Gloria è risorto, alleluia. Gloria. Ed eccoci di nuovo in studio per un appendice, diciamo, in carattere con la giornata. I versi di Dio, premio nazionale di poesia religiosa, curata dal clan Verdurin, naturalmente. Omaggio a Mario Luzzi, premio San Pietro di Feletto. I versi di Dio, noi leggeremo alcune poesie. La scuola del dolore. E la chemio, sospiravi quasi giustificandoti, senza più capelli, senza più ciglia, senza nemmeno la barba, quella dei tempi migliori. Siamo cresciuti alla scuola del dolore, mi dicevi sorridendo. Pensavi al tuo ultimo viaggio. Ma nessun viaggio è definitivo, nessuna speranza è vana. Disposti gli affanni, non si interrompe il cammino. La strada diventa luce, la vita salda dimora, di Massimo Pasqualone. Bello. Quelli sulla croce. Il modo migliore per rimanere appesi è di non conoscere la forma della croce, di credere sia solamente un'audace contorsione, sbadiglio e panni stesi come un risveglio. Invece ci cuoce come massa atroce che stinge e tace. Il legno spinge ogni chiodo, fuori lo vuole portare. Pietà della scheggia che incoraggia a seminare nei fori del costato, mentre sotto rumoreggia un cuore atrofico senza alcuna brace, il moto astenico di gola senza voce. Ancora ci chiedono dove sia la strada per raggiungere un sentiero vicino. Noi, segnalazione del divino, li nutriamo di speranza brada. Qualcuno è giunto fino alla foce, ma di sgorgare nessuno è capace. Campanili di una domanda feroce, il nostro tocco è il suono che compiace la metà dolorosa di un tutto infelice. L'enigma del chiodo nel mondo ha radice. Bene. Stefano Serri. E questo è bello. Perché questo dono? Il perché questo dono a un uomo la cui via è nascosta e che Dio racchiude da ogni parte? Lamentava Giobbe. Pianto di ogni anima, nel tempo dolore incarnato che bagna le lacrime, gli occhi e le mani dell'uomo. Conosco il buio del sentiero e l'inverno che avvolge la nebbia del cuore. Sento la fatica dei passi nell'ora della sventura innocente. A te, Signore, giunge il mio lamento, quando un sogno di giustizia si infrange sulla fredda pietra dell'iniquità. In me arde la fiamma dell'anima che illumina questi angusti confini e brucia la pena dei giorni di nuovo imbrigliati entro questo dolore. Nella vanità del tempo che scorre, un esile filo mi lega all'universo, estrema ricerca di senso, di un perché. I sospiri di Giobbe sono i miei sospiri, ma in te, Signore, trova riposo il mio dolore, nella tua luce si stempera il buio del giorno terreno. Sono sulla tua via. Anna Santarelli. Anche questa è una bella poesia. Molto bella. Sì, non so se siano le vincitrici o se siano tutte le poesie. Sono alcune, diciamo, tratte da questa silloge, la poesia religiosa, esatto. Beh, io credo che siano decisamente una cosa straordinaria. Certo. E, per ultima leggerò Il vascello fantasma di Rodolfo Vettorello. Ah sì, bravo. Dolcissimo cielo che inondi d'azzurro il profondo degli occhi, nascondi le stelle più grandi che brillano a notte nel fondo, laddove ora cerca lo sguardo e non trova nient'altro che un limpido lago di sole. La placida luce del giorno che illumina il mondo nasconde di là dalla vista universi. Il Dio che conosco non posso cercarlo nel cielo, se quello che vedo è soltanto un perfido inganno, un miraggio. Nel buio profondo è nascosto un mondo universo e il suo senso. e lui che non posso vedere, di giorno non posso cercarlo nel punto del cielo che voglio. Per questo mi lascio inondare per essere cieco nel sole. La notte le vedo le stelle più in fondo, nascosta, sepolta nel buio, la forma del Dio che conosco. Non servono gli occhi a vederlo. Vascello fantasma sperduto che naviga notti profonde. Mi basterà il cuore a sentirlo. La senti la mano di Vettorello, è vero? Mamma mia, guarda, è bravo, bravo. Straordinario. Guarda, Rodolfo è bravissimo. È una proprio cosa straordinaria. Io sì, allora vorrei concludere proprio con una poesia dal nome Illusione, che naturalmente non è la Pasqua per i cristiani, no, evidentemente. No. Però è il dubbio che tormenta l'uomo, ecco, di Riccardo Schina. Però ci si illude. Dove conduce la tempesta questo misero relitto, questa carcassa, un pensiero che è vissuto solo per volontà d'altri, che non è esistito nella realtà ingannevole ed ignorata? Dov'era il fiore di quella esistenza breve, di quella morte cercata con l'anima? Appassito, sì, sfiorito anch'esso, caduto insieme all'onda, così pesante da massacrare quell'unico pensiero, l'unica luce nata dalle tenebre, l'unica nave non naufragata. Bella, bella, bella. E qui diciamo che siamo alla conclusione, proprio sì, con questi pensieri profondi, con sì, questo distillato di sentimenti e di emozioni. Come mi è piaciuta tantissimo la poesia di padre Turoldo. Decisamente. Oh mamma mia. E quindi niente, non ci resta altro che naturalmente dare così riaugurare conclusione buona Pasqua con un augurio nuovamente che questa Pasqua proceda non solo per questo giorno chiaramente, che ma sia anche sempre per il Pasqua, futuro. Certo, esattamente. Certo. Per anche tutti a te noi. Antonio, buona Pasqua. Ringrazio reciprocamente. Ecco, come sempre vi dico ciao ciao e buona Pasqua ancora. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.